Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La parola petaloso è entrata dentro il grande vocabolario della lingua italiana, coniata da un bambino di 8 anni. Beh, questo progetto è un progetto petaloso. Questo progetto è un progetto che ha più di un ambito di azione, è un progetto che davvero possiamo definire con questa espressione. Era troppo forte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per Renzi appropriarsi anche di quest'ultima, come possiamo dire, onda comunicativa, che era questa storia di Petaloso, inventata da questo bambino di una scuola della provincia di Ferrara, un po' incentivato, diciamo, la sua creatività linguistica dalla maestra. È passato al vaglio questo aggettivo petaloso dell'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca va benissimo, è bello se la gran parte della gente comincia a usarlo, e allora diventerà un termine a tutti gli effetti corretto. Subito Renzi zacca il progetto petaloso. Del progetto petaloso di Renzi ne parleremo più tardi, quando racconteremo un po' tutta la sua giornata intensa lombarda e soprattutto milanese, e poi invece ci concentreremo sin dall'inizio, guardate un po', guardate che caso, sulle unioni civili, perché per ora la seduta in Senato è sospesa, dovrebbe riprendere a breve, perché pare che sia stato raggiunto allora questo accordo all'interno della maggioranza di governo, quindi tra PD e Nuovo Centrodestra, con un maxi emendamento che toglierebbe la stepchild adoption, come abbiamo parlato tante volte, la possibilità all'interno di una coppia dello stesso sesso di adottare il figlio biologico dell'altro, quindi verrà tolta, come verrà tolto anche l'obbligo alla fedeltà. Ecco, questa è una cosa che mi lascia un po' un punto interrogativo, poi cercheremo di capire perché si vuole togliere in un disegno di legge sulle unioni civili l'obbligo di fedeltà tra le coppie. Mi sembra che qualcosa ci sia sotto, evidentemente legato a qualcos'altro, perché mi pare un po' così strambo voler togliere questo obbligo di fedeltà. Ce ne occuperemo, capiremo appunto in che cosa consiste bene questo maxi emendamento. La fiducia dovrebbe essere votata domani, ma insomma in queste ore si sta capendo che cosa succede più o meno. E quello che vi chiedo è, visto che Renzi ha detto questo è un fatto storico, è la volta buona, sapete, lui ha fissato questo hashtag la volta buona, e diciamo che sono spaccate però le associazioni omosessuali. C'è chi dice, come Marrazzo di Gay Center, che è una delle associazioni più note, e bisogna rendere atto a questo Presidente del Consiglio che nessun altro prima di lui ha fatto una cosa del genere, una legge sulle unioni civili, mentre è scontenta Arcilesbica e anche le famiglie arcobaleno dicono senza la stepchild adoption è una legge farsa, una legge incompiuta, svuotata di senso. Voi come commentate? È effettivamente un evento storico, un fatto storico? E anche come commentate per esempio questo stralcio dell'obbligo di fedeltà, che poi cercheremo di capire appunto in cosa consiste. Ci occuperemo fra le altre cose anche della ripresa del processo per l'omicidio di Iara contro Massimo Bossetti, unico imputato, perché è stata un'udienza particolare oggi, erano presenti i suoi familiari ma anche una super testimone che, come disse in passato, ha ribadito che quel giorno in cui scomparve la piccola Iara era salita la tredicenne sul furgone di Massimo Bossetti. Sentiremo poi da chi ha seguito tutta l'udienza oggi. Intanto, come sempre, ecco, voi potete scrivere, vi dicevo, sul commentare questo testo sulle unioni civili, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ve lo ripeto ogni sera, ma ogni sera nuovi milioni di ascoltatori e ascoltatrici sono all'ascolto, quindi pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni, oppure i messaggi, gli sms al 349-238-6666. Unioni civili, trovato l'accordo nella maggioranza, domani in Senato si vota la fiducia, Renzi parla di fatto storico, stralciati adozione e obbligo di fedeltà. L'omicidio di Regeni, la nuova versione, l'Egitto dice che fu ucciso per una vendetta personale, ira dell'Italia, Gentiloni replica, piste improbabili, dateci i dati. Libia, fonti militari svelano che truppe francesi sarebbero segretamente al fianco dell'esercito libico. Berlusconi spiato dagli Stati Uniti, la procura di Roma apre un'indagine, la ministra Boschi alla Camera dice intollerabili le intercettazioni americane. L'omicidio di Iara, oggi in aula la madre, la moglie di Massimo Bossetti, una super testimone che dice di aver visto la tredicenne salire sul furgone dell'imputato. Legge antimoschee, stop della consulta alla Lombardia, Salvini accusa, è una corte islamica, non italiana, Maroni promette reagiremo e il neopresidente della consulta Grossi commenta sentenza contro le discriminazioni. FIFA, la squalifica per Blatter e Platini è stata ridotta da 8 a 6 anni. Partiamo quindi dalle unioni civili. L'accordo e la maggioranza di governo sul maxi emendamento al disegno di legge Cirinnà sarebbe stato raggiunto. Sono stati stralciati stepchild adoption e l'obbligo di fedeltà tra le coppie dello stesso sesso. Alfano si dice soddisfatto, Renzi parla di fatto storico, e di questo fatto storico, più o meno storico secondo i punti di vista, torneremo a parlare tra pochissimo. E proprio oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso sul caso di due donne sposate negli Stati Uniti, trasferitisi a Bologna, che chiedono il riconoscimento dell'adozione delle due figlie. Però in questo caso il neo presidente della Corte Costituzionale Grossi ha detto che non ha nulla a che fare questa sentenza col disegno di legge Cirinnà. Consulta della quale da oggi appunto il presidente Paolo Grossi, a cui oggi si è rivolto il Tribunale di Messina sull'Italicum, cioè sulla nuova legge elettorale. La legge elettorale, tanto voluta dal premier Matteo Renzi, dovrà passare dalla consulta. Così ha deciso il Tribunale di Messina, il primo a esprimersi su ricorsi presentati in 18 tribunali italiani. I prossimi saranno Trieste, Milano e Potenza, ci spiega uno dei promotori delle iniziative anti-Italicum, l'avvocato Felice Carlo Besostri. Se la Corte Costituzionale, però la composizione è cambiata, si attiene ai principi della sua sentenza sul Porcellum, deve annullare anche l'Italicum. Il neo presidente della consulta, Paolo Grossi, ha annunciato tempi brevi per risolvere la questione. Non si stupisce il ministro Alfano. Siamo in Italia, ha detto, una legge prima di diventare vigente già mandata alla consulta. I giudici siciliani hanno accolto 6 dei 13 motivi di ricorso presentati in tutta Italia, ritenendoli non manifestamente infondati. Tra questi anche il fatto di aver varato una legge elettorale per la sola Camera, quando la Costituzione oggi prevede il bicameralismo paritario, con tanto di referendum previsto per ottobre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E altra notizia che riguarda la Corte Costituzionale, che oggi ha bocciato la legge anti-moschee della Regione Lombardia. Gli uffici legali della Regione Lombardia avevano già avvertito il rischio che la legge che stabiliva criteri rigidi per la costruzione di nuovi edifici di culto non fosse costituzionale era considerato piuttosto forte. La consulta, dopo il ricorso del governo, ha dunque bocciato il provvedimento cosiddetto anti-moschee elaborato dalla giunta guidata da Roberto Maroni, nel quale si prevedeva il rispetto del paesaggio lombardo, procedure burocratiche complesse, videosorveglianza obbligatoria collegata con le forze dell'ordine. Naturale la soddisfazione dei rappresentanti delle comunità islamiche locali. David Piccardo, coordinatore del CAIM. Sono state utilizzate le istituzioni in maniera persecutoria nei confronti di una minoranza religiosa che conta più di 400.000 cittadini in questa regione, e questo lo riteniamo molto grave. Altrettanto naturale e molto dura la reazione della Lega e dello stesso presidente lombardo Roberto Maroni, il quale di prima mattina ha twittato: la sinistra esulta al grido di Allah Akbar, mentre Matteo Salvini la mette così. La consulta è una consulta islamica, non italiana, complice dell'invasione clandestina. La stessa Lega annuncia che presenterà un nuovo progetto di legge con regole certe. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'omicidio di Regeni adesso, nella nuova versione delle autorità egiziane, questa nuova versione, che fu ucciso per una vendetta personale. Naturalmente questo scatena l'indignazione dell'Italia, perché pare che sia sempre più lontana la possibilità di raggiungere la verità, almeno attraverso le autorità egiziane. Il ministro degli esteri Gentiloni replica: piste improbabili, dateci i dati. Voglio essere chiaro ancora una volta, noi non ci accontenteremo di verità di comodo, tanto meno di piste improbabili come quelle che ho sentito evocare anche stamattina al Cairo. La Libia, fonti militari svelano che truppe francesi sarebbero segretamente al fianco dell'esercito libico. Praticamente i comando francesi sarebbero stati schierati a Bengasi, nell'est della Libia, per sostenere le operazioni militari in corso lanciate dall'esercito guidato da Khalifa Haftar, che ieri ha ottenuto un importante risultato proprio a Bengasi. I ritardi nella formazione del nuovo governo libico di unità nazionale preoccupano le diplomazie internazionali. Il timore è quello di un rafforzamento dei terroristi dell'ISIS, che oggi a sorpresa hanno attaccato la città di Sabrata e per alcune ore hanno preso il controllo del quartier generale della polizia. Combattimenti sono in corso anche in altre zone del paese, mentre si attende il via libera al nuovo esecutivo, dal quale dovrà partire la richiesta di un intervento internazionale. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Le Monde, però, le forze speciali francesi starebbero già effettuando operazioni segrete nella zona di Bengasi. Dalla prossima settimana poi potrebbero entrare in azione anche i droni americani dislocati a Sigonella. Per il ministro della Difesa Pinotti, il via libera concesso dal governo è coerente con con la strategia italiana. L'impiego di tali mezzi riguarda esclusivamente profili difensivi di proprio personale. Il loro utilizzo dalla base di Sigonella è di volta in volta discusso e autorizzato. La soluzione della crisi libica passa per la formazione del nuovo governo e non per improbabili missioni militari, aggiunge dal canto suo il ministro degli esteri Gentiloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo al caso di Berlusconi spiato dagli Stati Uniti. Indaga la Procura di Roma sull'intercettazione di conversazioni telefoniche nel 2011 dell'allora premier Berlusconi. Il fascicolo, senza ipotesi di reato né indagati, contiene anche una serie di articoli dedicati dalla stampa al caso, sbarcato in Parlamento. La Boschi ha garantito impegno verso la verità, trovando il plauso di Brunetta. Sarebbe chiaramente per noi inaccettabile immaginare un'attività intercettiva nei confronti di un governo alleato da parte degli Stati Uniti e quindi richiede sicuramente un urgente approfondimento. Sono soddisfatto della sua risposta, nel senso che lei ha descritto la situazione con un certo imbarazzo, ovviamente oggettivo imbarazzo. Brunetta ha chiesto una commissione di inchiesta e di assistere all'audizione al Copasir domani del sottosegretario con delega ai servizi segreti Marco Minniti. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di Berlusconi, questa è una notizia così un po' leggera che lo riguardava ieri, dice: io vegetariano cado completamente dalle nuvole, e trovandosi sui social network e su qualche giornale commenti su mie presunte abitudini alimentari, oso far presente che io, dice Berlusconi, non ho fatto mai alcuna dichiarazione al riguardo, cioè sul fatto che sia vegetariano, né in pubblico né in privato. Ieri, non so perché è uscita questa notizia anche sui siti abbastanza in alto, che Berlusconi all'alba dei 80 anni era diventato vegetariano, lui smentisce quindi. Quanto invece all'attuale Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, continua a viaggiare senza sosta su e giù all'estero e in Italia. Per il Presidente del Consiglio oggi è stata una giornata lombarda e soprattutto milanese, ha inaugurato la Fashion Week, la settimana della moda, ha incontrato i più importanti stilisti italiani e ha presentato anche un progetto post-expo, ma di questo poi ne parleremo nel dettaglio più tardi con chi ha seguito questa giornata renziana. Siamo alla cronaca, l'omicidio di Yara. Oggi in aula c'erano la madre, il fratello e la moglie di Massimo Bossetti, i primi due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e ha fatto la sua deposizione una super testimone che dice di aver visto la tredicenne salire sul furgone dell'imputato. Ne parleremo con chi oggi ha seguito in tribunale l'udienza a Bergamo. Poi ci sono stati i funerali dell'insegnante uccisa nel Torinese, oggi a Castellomonte, il funerale di Gloria Rosbock, l'insegnante uccisa lo scorso 13 gennaio e poi buttata nel pozzo di un'ex discarica dove il suo cadavere è stato ritrovato venerdì scorso. Don Angelo Bianchi, che ha celebrato l'omelia, ha detto: una vita non può essere stroncata perché un altro essere umano si è arrogato il diritto inesistente di togliergli la vita. Solo un criminale, dice Don Bianchi, un pericoloso folle può compiere tale gesto, un folle che deve essere fermato perché le sue mani omicide non possano più distruggere altre vite. Un altro fatto di cronaca: un uomo aggredito con un cacciavite la moglie e la figlia. Il fatto è accaduto in un'abitazione di Marcianise, nel Casertano. Le due vittime sono state ricoverate in ospedale, la più grave è la madre della ragazza, che è ricoverata in codice rosso. L'uomo è stato invece fermato dalla polizia. E poi c'è questa notizia che riguarda l'aborto clandestino. È proprio rivolta nel web una norma passata senza che quasi nessuno se ne accorgesse, ma ora che donne e associazioni hanno lanciato l'allarme, la protesta sul web sta dilagando, sta diventando virale. Parliamo della depenalizzazione dell'aborto clandestino, che ora prevede sanzioni molto più salate per chi vi ricorre. Fino a poco tempo fa l'aborto clandestino era un reato, ma un decreto legislativo del 15 gennaio scorso lo ha depenalizzato insieme, vi ricordate, a una serie di altri reati. Peccato però che contestualmente le sanzioni per le donne che vi ricorrono sono passate da una cifra massima di 51 euro a una che oscilla tra i 5 e i 10 mila euro. Ad accorgersi di questa sgradita novità è stato un gruppo di donne, tra femministe, giornaliste, blogger, eccetera, che due giorni fa hanno lanciato una protesta su Twitter con l'hashtag obiettiamo la sanzione, che dopo questo tantan è diventato appunto virale. C'è la richiesta a Renzi e alla ministra della Salute Lorenzin di rendere applicabile la legge 194, di ritirare queste super ammende che penalizzano le donne. Anche la segretaria della CGIL Camusso ha twittato: applicare la 194 per mettere alle donne di scegliere il servizio pubblico, perché che cosa succede? Che adesso ormai i medici obiettori negli ospedali italiani sono circa il 70%, quindi per le donne diventa veramente difficile trovare un ospedale dove possano, anche se è una cosa terribile, sgradevole, eccetera, abortire, insomma, legalmente. Per chiudere, notizie di calcio: la commissione di appello della FIFA ha ridotto da 8 a 6 anni la sospensione comminata a suo tempo al presidente uscente Joseph Blatter e a quello dell'UEFA Michel Platini, e ci sono partite di Champions anche questa sera, ma solo con le straniere, Dario Ricci, vero? Sì, purtroppo non abbiamo altre italiane in campo, cara Roberta, oltre a Roma e Juventus. Stanno giocando, siamo intorno alla mezz'ora, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, partita interessante con un paio di occasioni per parte, poi Dinamo Kiev e Manchester City, col Manchester in vantaggio grazie alla rete al 15° di Sergio Aguero e magari qualche rimpianto per la Juventus, che è finita alle spalle proprio del Manchester City nel girone, che magari invece del Bayern Monaco avrebbe pescato i più abbordabili ucraini. Fatto sta, insomma, Manchester City in vantaggio a Kiev, 0-0 tra PSV e Atletico Madrid. Aggiornamenti più tardi con Dario Ricci, grazie Dario, e adesso vi aggiorno invece sui messaggi che state mandando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. A proposito dell'epilogo sulle unioni civili, sul disegno di legge Cirinnà, Renzi parla di fatto storico di questo compromesso col nuovo centrodestra, spaccate le associazioni gay, chi si ritiene soddisfatto e chi dice mai è successo prima questa cosa e chi invece dice no, in realtà la legge così è molto a ribasso. I vostri messaggi: Virgo scrive, Mavalà e Gattopardi hanno vinto ancora una volta. Michele sulla pagina Facebook di Effetto Notte, una schifezza storica, davvero, io e il mio compagno non siamo dei concubini, caro Renzi. Corrado, la montagna ha partorito forse il topolino. Nino scrive, obbligo di fedeltà, i buoi che danno dei cornuti agli asini. Federica dice, cara Roberta, ecco lo scopo del canguro di Renzi, proporlo sapendo che noi non l'avremmo potuto approvare, visto che l'abbiamo duramente contestato molte volte come violenza antidemocratica, per poi dare un contentino che va bene ad Alfano e convogliare il tutto. Questa è Federica, evidentemente fa parte del Movimento 5 Stelle. Angela dice, la fedeltà è una cosa seria, mica per tutti, dice Alfano, e Renzi acconsente, perché vi dicevo c'è stato, oltre allo stralcio della stepchild adoption, anche quello dell'obbligo di fedeltà, che cercheremo di capire tra poco che vuol dire. Qualcuno scrive, forse diciamo con qualche pregiudizio, ma quale fedeltà? I gay per definizione cambiano continuamente parte, da parte che è una cosa che si attribuisce ai maschi gay, ma ci sono anche le donne, e cosa vuol dire? Che quindi gli uomini gay sono al quadrato, hanno al quadrato certe caratteristiche degli uomini, e le donne lesbiche hanno al quadrato le caratteristiche delle donne in genere. Ma insomma, questi sono tutti, per carità, qualche cosa di fondato qui e là ci sarà, ma questo riguarda allora un po' tutti. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora il discorso, vi ho fatto prima il riassunto della giornata come sempre con le notizie più importanti dall'estero e in Italia, e tra poco vi faccio un sunto se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, e poi prima di entrare nel cuore degli argomenti vorrei ancora leggere qualche vostro messaggio, stanno arrivando tanti alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Vi chiedevo, visto che è stato raggiunto questo compromesso sul quale dovrebbe essere votata la fiducia domani, compromesso sul disegno di legge Cirinnà all'interno della maggioranza di governo, quindi essenzialmente tra PD e Nuovo Centrodestra e Area Popolare, con lo stralcio della stepchild adoption e anche dell'obbligo di fedeltà, sulla quale qualcuno ha fatto anche dell'ironia dicendo che cosa significa questo, che consentite, sono consentite le corna, insomma, proprio Alfano lo dice, ha chiesto così qualcuno, spaccate comunque le associazioni gay tra chi è soddisfatto e chi invece dice così è svuotata la legge di senso. Scrive Luca, ci credo che il movimento lesbico è scontento, non possono usare il maschio inconsapevole e poi fare famiglia tra di loro col figlio. Guarda Luca, che le donne se vogliono un figlio se lo fanno comunque, poi esiste anche la banca del seme, esiste un po' in tutto il mondo. Poi per oggi l'usurpatore è andato alla giornata della moda femminile ma ha sfilato pure lui, visto che come è veloce appropriarsi di tutto ciò che gli capita, dice Clotilde. Vabbè, questo è su Renzi e il petaloso. Sabrina scrive, lo stralcio dell'obbligo di fedeltà è legato alla reversibilità della pensione, questa legge che era già un compromesso a ribasso è diventata qualcosa di ridicolo, sui diritti non si scende a compromessi. Sabrina, poi capiremo tra pochissimo se è effettivamente così, se quindi non è semplicemente una roba così etica buttata lì l'obbligo di fedeltà, ma è legato a qualcos'altro, come io ho il sospetto, ma lo capiremo tra poco. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. A parte che vedo una notizia d'aggiornamento adesso che mi pare piuttosto grave: una legge shock in Iowa, negli Stati Uniti, sia le armi per i bambini. Armare i bambini è quanto prevede uno sconvolgente disegno di legge all'esame del Parlamento dell'Iowa negli Stati Uniti. Le norme prevedono che i bambini sotto i 14 anni potranno utilizzare armi purché sotto la supervisione dei genitori. I democratici sono pronti alla battaglia. E poi le altre notizie: c'è l'accordo, la fiducia sulle unioni civili, Renzi esulta, è un fatto storico, stralciati adozione e obbligo di fedeltà. Dall'Egitto arriva questa ulteriore versione sulla morte del povero Giulio Regeni. Regeni ucciso per vendetta, per motivi personali. Sul Cairo l'ira dell'Italia, Gentiloni attacca, piste improbabili, ora forniteci i dati. Stop alla legge antimoschee in Lombardia, la Lega contro la Consulta, Salvini dice una corte islamica non italiana, Maroni promette reagiremo. Libia, Sigonella si prepara, la Francia in campo con Haftar, sono fonti militari che rivelano che la Francia già sta facendo una guerra segreta al fianco delle truppe libiche. E poi Berlusconi spiato, il caso di Berlusconi spiato dagli americani, la Procura di Roma apre un'inchiesta. E in super test al processo di Iara, oggi è ripreso il processo, questa testimone dice la vidi in auto con Bossetti, erano presenti oggi anche i familiari a deporre di Massimo Bossetti, ne parleremo più tardi. Onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge numero 2081. L'avete riconosciuta la ministra Boschi, che pone la fiducia su questo maxi emendamento, perché sapete, abbiamo parlato ormai da tempo, dopo lo scontro la scorsa settimana molto forte tra PD e Movimento 5 Stelle sul super canguro, alla fine Renzi ha riconosciuto che il PD da solo non aveva i numeri per far passare la legge, quindi ha pensato che l'unica strada possibile fosse questa del compromesso col nuovo centrodestra e la Popolare, insomma con l'alleato di governo, facendo un maxi emendamento in cui stralciare, fino a poche ore fa si parlava essenzialmente della Child adoption, la possibilità all'interno di una coppia dello stesso sesso di adottare il figlio dell'altro, ma è stato eliminato anche l'obbligo di fedeltà, che tra poco ci faremo spiegare in cosa consiste, se rimanda qualcos'altro. Domani appunto si dovrebbe votare la fiducia. Vi dicevo che le associazioni gay sono spaccate, perché Gay Center, attraverso il suo portavoce Fabrizio Marrazzo, dice: Renzi ha fatto quello che altri leader e Presidente del Consiglio non avevano mai fatto finora, ha dimostrato di volere una legge per dare diritti ai gay, mentre Arcilesbica dice che è una scelta a ribasso, così le famiglie Arcobaleno dicono: per noi è una legge irricevibile. Ne parliamo con la nostra Elisabetta Fiorito in diretta da Roma. Cara Betta, buonasera, buonasera radioascoltatori. Elisabetta, innanzitutto se ci spieghi cosa significa stralciare l'obbligo di fedeltà, che cosa sottende? Sottende qualcosa o niente di che? Ma io la metterei come una battuta: i gay potranno tradire, gli sposati no. Ecco. Insomma, autorizzazione. Un po' così, no? Allora, tutti quanti gli sposati divorzieranno e chiederanno le unioni civili, che tu sai che sono anche consentite per le unioni eterosessuali, perché così potranno tradire. Allora, qual è il problema? Il problema è che gli articoli, quando si va a sposarsi, io per esempio mi sono sposata civilmente perché mio marito è di un'altra regione, ci sono questi articoli del codice civile che vengono letti e praticamente viene detto che c'è l'obbligo di fedeltà tra questi articoli, no? Sì. Perché sennò si rischia, l'altro può chiedere la separazione. Un po' spuffa, anche perché io mi sarei comunque sposata civilmente, no? Non dico poi la religione in cui sono nata, ecco, per questo. Però e anche mio marito probabilmente si sarebbe sposato civilmente, però ci sono questa lettura molto pomposa che viene fatta con la fascia tricolore, eccetera, anche in un matrimonio civile, in cui si dice che c'è l'obbligo di fedeltà in questo matrimonio. Allora, e lì viene un po' da sorridere, perché noi sappiamo, insomma, voglio dire, molte coppie eterosessuali non è che poi questa cosa si sentono vincolate necessariamente. Insomma, sì. Allora, il problema era di non equiparare a livello poi tecnico i matrimoni alle unioni gay o alle unioni omosessuali. Allora, che bisogna fare? Bisogna trovare un escamotage, perché in che cosa il matrimonio in questi articoli del codice civile, no? Stiamo parlando di uno stato laico in cui si leggono degli articoli, anche se si fa un matrimonio in chiesa, in moschea o in sinagoga o al tempio induista, E il problema era questa cosa, che nel matrimonio tra una coppia di diverso sesso, cioè tra un uomo e una donna, c'è scritto che bisogna sposarsi e avere l'obbligo di fedeltà. Allora, da Oltretevere, tu sai che c'è questa distinzione a Roma tra Tevere e Oltretevere, no? Da Oltretevere il Vaticano, c'è stato Monsignor Parolin. Si sono incontrati ieri, no? Per i patti lateranensi, per rinnovare. Sì, che ha detto, stiamo combattendo perché non ci sia questa equiparazione al matrimonio. Perfetto, il nuovo centrodestra con Beatrice Lorenzin ha detto lo straccio delle adozioni non è sufficiente, bisogna proprio fare una cosa vera, che non ci sia questa equiparazione. E tutti quanti noi in sala stampa ci chiedevamo, parlamentari, insomma, chi sarà? Alla fine l'escamotage è stato: allora leviamo la fedeltà. Ecco, ma questo, anche... scusa Betta, solo per non farle assomigliare, ma poi nel concreto questa storia, per esempio, della pensione di reversibilità non c'entra niente, non è legata... Non c'entra niente, ah. I diritti rimangono, per cui ci sono le pensioni di reversibilità e questo è importante. Certo. Vi rimane, se pagano il fatto le tasse, se pagano i contributi, ci mancherebbe, insomma. Che la stepchild adoption non c'è, però si rimanda una legge sulle adozioni e poi si fa una cosa... in modo tale da non intralciare la magistratura, cioè nel senso che ci sono state delle sentenze anche giudicate in cui sono stati riconosciuti, no, questi figli del partner di una coppia omosessuale, quindi molto a livello diciamo di legge è molto molto attenuata anche la stepchild adoption, non c'è, non si legifera, però non si intralcia, diciamo. E poi bisognava non equiparare le unioni civili al matrimonio, è l'unica cosa trovata è il fatto che unitevi, la fedeltà, fate quello che vi pare, omosessuali di tutto il mondo, se vi volete tradire o anche se non vi volete tradire potete adesso fare le unioni civili che non sono così vincolanti. Allora l'altra cosa riguarda le coppie eterosessuali, riguarda l'assegno di mantenimento. E questa è la cosa differente, per cui il partner potrà corrispondere l'assegno di mantenimento, ma non è più un obbligo, ma è una facoltà. Cioè, se ci si unisce con unioni civili eterosessuali anche, quindi in questo caso. Tutti gli eterosessuali adesso... subito convogliano nelle unioni civili. Da Oltretevere vedranno crollare i matrimoni che già erano crollati, non più, si vedrà no, non dire queste cose che poi danno colpa ai gay che crollano la famiglia, che non c'entra niente. Si vedrà anche un crollo dei matrimoni civili. Beh, io ho detto con una battuta oggi su Facebook, mio marito subito chiede il divorzio. Faccelo sapere, Betta, se poi tuo marito chiede. Senti, vedo un aggiornamento, unioni civili domani, prima chiama su Fiducia alle 19, quindi domani in serata, nel tardo pomeriggio, c'è questa prima. Ti voglio far sentire però Alfano cosa ha detto oggi, sentiamo il passaggio. Renzi cosa voleva fin dall'inizio del suo mandato di presidente? Affermare che portava a casa una legge sulle unioni civili per cui tanti presidenti del Consiglio di sinistra e tanti leader della sinistra avevano parlato senza riuscire a portare a casa questo risultato. Credo che nel giro di poche ore lui otterrà questo risultato al Senato e nel giro di alcune settimane lo otterrà anche alla Camera. Senatrice Bonfrisco, mi pare che vuole intervenire. Sì. Siamo in Senato, è in diretta, c'è il grasso. Sapendo che non è che si debba questo votare, questo è Gaspari dalla voce, ma non lo vedo. Che resti agli atti anche dei lavori dell'Assemblea, essendo una legge importante, discussa, che continuerà a far discutere. Importante, il dice paese, Gaspari. Sarà soddisfatto per un verso, chi non lo sarà per un altro. Noi arriviamo a questa stretta finale di discussione, non rifaccio tutta la storia per rispetto no, di meglio stessi, di noi, abbiamo poco tempo. Ora, visto che molte cose sono state già dette e la Commissione non ha potuto affrontare il testo. È arrivato un testo che è uscito prima sul sito del Corriere della Sera e poi è stato distribuito in conferenza dei capigruppo. Si dirà nell'epoca dei computer. Quindi Gaspari di Forza Italia si lamenta di non aver prima visto questo testo, parlano di forzatura per quanto riguarda la fiducia, ormai mi sembra non ci sia alternativa. Betta Fiorito, farei sentire anche la senatrice Marzano del PD, deputata, scusa, che mi pare abbia detto che se non passava la step child adoption lei avrebbe potuto lasciare il PD. Sentiamola. Io porterò avanti, come ho detto, la battaglia qui alla Camera per reintrodurre step child adoption, dopodiché tirerò le conseguenze e resterò coerente con quello che ho sempre detto. Nel momento in cui si dovesse approvare una legge che non è degna di questo nome, non basta portare a casa il risultato unioni civili per dire che le unioni civili sono state veramente realizzate, ebbene io tirerò le conseguenze e molto probabilmente lascerò il Partito Democratico. Questa è Michele Marzano. Betta Fiorito, hai diciamo 23 secondi se vuoi fare una chiusura. Allora, bisogna dire una cosa, in questo momento la deputata Marzano è una filosofa, vive a Parigi, chiaramente ha una concezione diversa rispetto ai compromessi italiani e dell'italietta. L'altra cosa è che il Movimento 5 Stelle ha perso una battaglia, questo bisogna dirlo, ha perso un'occasione, e vediamo cosa succederà alla Camera, perché lì potrebbero esserci un pochino di sorprese. Intanto, diciamo, portiamo a casa questa legge che ha già distolto molto l'attenzione degli italiani su dei problemi concreti come il lavoro, come le pensioni, come tante cose. Portiamo a casa al Senato e poi vediamo che cosa succederà alla Camera. Grazie Elisabetta Fiorito. Ciao, buona continuazione, buona serata. Ciao Elisabetta. Ciao. Adesso direi che proprio velocissimamente leggo qualche vostro altro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, perché già dobbiamo avvicinarci alla pausa. C'è Federica che dice, no, questo l'avevo già letto, Angela, la fedeltà è una cosa seria, mica per tutti, dice Alfano, che questo l'avevo letto. Toland dice, ma tutto sto schifo, questo degrado che sta passando in Italia, devono occuparsi di queste porcate i politici? Probabilmente non ho capito se evidentemente non è soddisfatto neanche del fatto che ci siano state discussioni sulle unioni civili. Alessio, l'erede di De Mita ha fatto ciò che Bagnasco e l'Acciaio avevano chiesto. Mi stupisce lo stupore. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto, con la conduttrice giusta naturalmente Roberta Giordano con voi come sempre fino alle 22. Vedo i vostri messaggi, abbiamo parlato lungamente delle unioni civili, abbiamo sentito anche qualche passaggio al Senato in diretta, comunque si vota domani la fiducia, la prima chiama sarà alle 19 domani in serata, raggiunto questo compromesso sul maxiemendamento all'interno del governo, della maggioranza di governo tra Renzi, tra il PD ecco, e il nuovo centrodestra, stralciati quindi dicevamo la possibilità di adottare il figlio biologico dell'altro all'interno di una coppia omosessuale, cioè la step child adoption, e stralciato anche l'obbligo di fedeltà su cui molti fanno ironia. Dicevo, Paola scrive per esempio al 349-238-6666, obbligo di fedeltà, stiamo scherzando, vero? Che cos'è? Il solo parlarne è così arretrato, è frutto di uno pseudoconformismo che mi disgusta addirittura, scrive. E poi un altro messaggio è quello di un altro ascoltatore che non si firma. Divertente il tutto, ci sono cornuti di serie A e di serie B, forzata modernità per ottenere consensi. Effettivamente è un po' stramba questa cosa, si è trovato questo, diciamo, questo stratagemma di levare l'obbligo di fedeltà, ci spiegava Betta Fiorito da Roma, per cercare di distinguerlo dal matrimonio. Insomma, c'è una cosa un po' così capata per aria, però evidentemente questo è stato l'accordo. Adesso invece cercheremo di capire quali sono le novità emerse dalla ripresa del processo contro Massimo Bossetti, unico imputato per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio. Dicevo, qualche altro messaggio anche sulla pagina Facebook. Maurizio dice, come nel migliore stile della nostra Repubblica parlamentare, a comandare sono i partiti minoritari, per di più per mano di un Alfano che ha tradito Berlusconi per tenersi la poltrona. Enzo scrive, Grillo aveva con Bersani la possibilità di iniziare un percorso di cambiamento, rinnovamento dell'Italia, non ha voluto, quindi tutto rimane come prima, se non peggio. Alessandro, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, c'è una mente sopraffina dietro tutto questo, è rimasta salda l'intesa con Alfano, si è evitata la frattura insanabile all'interno del PD e la colpa è stata scaricata con l'aiuto dei media, dice, sui 5 Stelle. Unica cosa, non credo che ci sia Renzi dietro questa mossa, ma chi ci sarà? E comunque adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Unioni civili, trovato l'accordo nella maggioranza, domani in Senato si vota la fiducia, Renzi parla di fatto storico, stralciati, adozioni e obbligo di fedeltà. L'omicidio di Regeni, nella nuova versione l'Egitto dice che fu ucciso per una vendetta personale, ira dell'Italia, Gentiloni replica, piste improbabili, forniteci i dati. Libia, fonti militari svelano che truppe francesi sarebbero segretamente a fianco dell'esercito libico. Berlusconi spiato dagli Stati Uniti, la Procura di Roma apre un'indagine. L'omicidio di Iara, oggi in aula la madre e la moglie di Massimo Bossetti, una super testimone che dice di aver visto la tredicenne salire sul furgone dell'imputato, ne parleremo tra breve. Legge antimoschee, stop della consulta alla Lombardia, Salvini accusa, è una corte islamica, non italiana, Maroni promette reagiremo e il neopresidente della consulta, Grossi, commenta sentenza contro le discriminazioni. Quindi concentriamoci sul delitto di Iara Gambirasio, ve lo ricordo, la tredicenne di Brembate di Sopra, vicino Bergamo, che il 26 novembre del 2010, dopo essere uscita dalla palestra dove faceva ginnastica artistica, scomparve nel nulla e poi il suo corpo fu ritrovato 3 mesi più tardi, il 26 febbraio 2011, in un campo, in mezzo alle sterpaglie di Chignolo d'Isola, 20 minuti da casa, e fu accertato che era stata lasciata morire tra sevizie. Per questo delitto l'unico indagato è Massimo Bossetti, oggi dovrebbe avere 45 anni, carpentiere di Mapello, è in carcere dal 16 giugno 2014, accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dalle sevizie. Lui si è sempre professato innocente, però secondo gli inquirenti è il suo DNA, è il DNA maschile di ignoto 1, come sono sue le tracce genetiche scoperte durante l'autopsia e ricerche di laboratorio. Oggi è ripreso il processo ed era un'udienza particolare perché erano presenti i familiari di Bossetti, la madre e il fratello, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e la moglie Marita, che qualcosa ha detto a proposito di siti porno che sarebbero stati trovati, alcune ricerche ritrovate poi sul computer di Bossetti. E poi c'è questa super testimone che avrebbe detto di aver riconosciuto Bossetti, di averlo visto quel giorno, di aver visto la piccola Iara salire sul suo furgone. Ma ne parliamo direttamente con Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Vittorio, tu hai seguito l'udienza oggi, no? Eri in tribunale a Bergamo. Sì. Ci racconti un po' come è andata, per esempio, appunto, a proposito dei familiari. So che a un certo punto anche Bossetti ha sbottato rispetto a qualcosa che stavano chiedendo gli avvocati. Sì, Bossetti ha sbottato quando gli avvocati della parte civile che assistono i genitori della povera Iara hanno cominciato questo lungo e pesante elenco di siti porno da cui risulta che i computer di casa Bossetti si fossero collegati. È stato un basta perché Bossetti probabilmente capiva la tensione, la dura prova a cui la moglie Marita, per amor suo evidentemente, si stava sottoponendo, accettando di rispondere alle domande e addirittura addossandosi a quella che è la paternità di queste ricerche pornografiche su internet, pur di cercare di sgravare la posizione di suo marito. Cioè lei ha detto durante questa udienza, in realtà sì, le cercavo io queste cose, non ho mai però cercato tredicenni, e a volte lo facevo anche insieme a lui, di navigare insomma su questi siti. Esatto, sì, queste navigazioni secondo l'accusa testimonierebbero qualcosa rispetto al possibile movente dell'omicidio. È chiaro che ricerche del tenore tredicenni o ragazzine possono indurre, far pensare che ci sia una particolare attenzione di carattere sessuale nei confronti di ragazzi giovani come era Iara, che proprio aveva 13 anni quando è stata rapita e uccisa. Vittorio, senti, scusami, appunto c'era la madre presente di Bossetti. Pare che ci fosse sorpresa per il fatto che si avvalsa della facoltà di non rispondere, perché sembra che invece avesse annunciato che voleva dire la sua verità. Sì, è stato un colpo di scena. Fino alla serata di ieri le voci che circolavano davano per certo il fatto che Esther Azzuffi, mamma di Massimo Bossetti, avrebbe parlato. Invece oggi, a sorpresa, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Secondo il suo avvocato, Benedetto Bonomo, la scelta è stata presa veramente all'ultimo, temendo che gli venisse rivolta una domanda assai spiacevole e tutto sommato superflua, perché la risposta sta nella scienza, sulla sua relazione ormai datata di molti 4 anni decenni fa, con Giuseppe Guerinoni, che è poi risultato il padre di Ignoto 1 e quindi di Bossetti, l'uomo che è stato addirittura riesumato nel corso delle indagini per cercare di stabilire con certezza questa paternità. C'era il fratello, perché Bossetti ha una sorella gemella e un fratello, anche lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come mai non è stata invece convocata la sorella gemella di Bossetti, è stato spiegato? No, non è stato spiegato. Il suo ruolo dal punto di vista delle indagini è stato assolutamente marginale. Lei, c'è da dire, che segue tutte le udienze, non ne ha persa una, è sempre molto vicina alle sorti del fratello. E poi, per chiudere, Vittoria Tanà, la super testimone, questa donna Alma Azzolin, donna di Trescore Balneario, che lì, insomma, sempre nel Bergamasco, che avrebbe ricordato di aver visto, in realtà era una cosa che lei aveva dichiarato già forse 2 anni fa, e poi oggi ha fatto questa deposizione, che lei si ricorda, dopo aver visto la televisione, foto, immagini di Bossetti e anche di Iara, di averla vista salire quel giorno in cui poi è scomparsa sul furgone di Bossetti. Oggi così ha detto in tribunale? Sì, il punto debole di questa testimonianza, a mio avviso, e avviso anche di molti, è la sua tardività, nel senso che nel 2014 la donna si presenta dai carabinieri raccontando questa cosa. Il punto di forza invece di questa testimonianza, e oggi è emerso in maniera piuttosto chiara dalla stessa voce della donna, è stata la descrizione particolareggiata di questo incontro che lei ebbe con questo individuo che sostiene essere Bossetti, perché dice: mi trovavo in un parcheggio, è arrivata questa station wagon grigia, che Bossetti aveva appunto questo tipo di autovettura, e c'era un uomo che mi fissò con occhi chiarissimi, come sono poi quelli di Bossetti. Lei lo ha poi indicato oggi in aula in maniera inequivocabile, ha detto sì, quell'uomo era proprio lui. E poi dopo aver parcheggiato, quell'uomo, sempre secondo racconto della donna, fu raggiunto da una ragazzina sui 13-14 anni, la cui descrizione è assolutamente simile a quella di Iara Gambirasio, e poi la donna indicherà in una fotografia, farà un riconoscimento fotografico di Iara. Salì sulla macchina e lei appunto rimase colpita dal fatto, pensava inizialmente fosse un padre in attesa della figlia, poi l'atteggiamento le suggerì qualcosa di diverso, un ricordo che è rimasto poi nella sua memoria sopito, diciamo, e risvegliato poi dalle trasmissioni televisive che dopo l'arresto di Bossetti hanno ovviamente trasmesso immagini sia dell'arrestato sia della vittima. Vittorio, procede domani le udienze, quando vanno avanti? Venerdì si proseguirà, dovrebbe parlare la cognata di Bossetti e soprattutto però l'attesa è per l'udienza del 4 marzo, dove, se il calendario verrà rispettato, sarà proprio il turno dell'imputato. Grazie molto Vittorio Tanà dell'Eco di Bergamo. Grazie Vittorio, grazie a voi, buon grazie, lavoro. Buona serata. Viabilità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vi ricordo tra pochi istanti le notizie più importanti. Alberto, continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice Alberto: Renzi ce l'ha fatta in un'impresa veramente storica, ha ricevuto telefonate da amici francesi per complimentarsi sul cambiamento in atto. La stepchild dovrà rientrare in una legge generale sulle adozioni, la fedeltà è stata tolta per marcare la differenza tra unioni e matrimoni e questa è una discriminazione legalizzata, ma l'importante è la reversibilità della pensione, aspettiamo di vedere la legge definitiva sperando che la Cirinna sia solo il primo passo verso un'Italia a meno bigotta. E le notizie più importanti sono appunto il fatto che si è arrivati a questo accordo sul maxiemendamento, domani ci sarà la fiducia sul DDL Cirinnà. A proposito di Giulio Regeni, dell'omicidio in Egitto, le autorità egiziane dicono adesso una nuova versione: è stato ucciso per vendetta, per motivi personali, ma Gentiloni dice basta, sono piste improbabili, forniteci i dati. Stop alla legge anti-moschee in Lombardia, la Lega contro la consulta, Salvini dice una corte islamica, non è italiana, Maroni annuncia reagiremo. E poi Berlusconi spiato, la Procura di Roma apre un'inchiesta, la ministra Boschi alla Camera dice intollerabili le intercettazioni americane. Europa 24 notte. Si fa sempre più accesa la questione migranti in Europa. L'Ungheria annuncia un referendum sulle quote, mentre l'Austria lancia una vera e propria sfida a Bruxelles. In vista del Consiglio dei Ministri degli Interni di domani, convoca a Vienna i ministri dei paesi balcanici che stanno già seguendo il suo esempio quanto a misure e controlli restrittivi. Esclusa invece dalle istituzioni europee la Grecia, di cui la reazione irritata del primo ministro Tsipras, che ha parlato di atto non amichevole. Ma l'Austria va avanti nella sua politica solitaria e Alessandra Schepisi ne ha parlato con Antonio Villafranca, responsabile per l'Europa dell'ISPI, Istituto Superiore di Politica Internazionale. Io credo che si tratti di un altro segnale di pericolo perché dà il senso della disgregazione ormai di Schengen, in cui ciascun paese crede di poter fare veramente da solo, perché d'altra parte deve prendere il dato oggettivo, non si riesce a trovare un accordo a livello europeo. Lei diceva un segnale negativo perché ogni paese crede di poter fare insomma quello che vuole nel campo delle politiche migratorie, ma in realtà l'Unione Europea che cosa può fare? Cioè ha davvero le competenze per poter agire o portare avanti un'azione più efficace? Allora, questo è il nodo cruciale, direi, nel senso che è sempre molto facile, ormai è diventato una sorta di sport nazionale, quello di accusare sempre l'Unione Europea perché è incapace appunto di deliver, si direbbe in inglese, cioè di realizzare qualcosa che abbia effettiva efficacia, e questo è eclatante ovviamente nel caso delle migrazioni. Però vale la pena proprio ricordare che le politiche migratorie non sono delle politiche su cui l'Unione Europea ha competenza esclusiva. Questo cosa vuol dire in maniera molto semplice? Vuol dire che non ci possono essere iniziative unilaterali da parte delle istituzioni comunitarie, cioè la Commissione non può dire si fa così e decidiamo in questo modo per tutta l'Unione Europea. La Commissione ha soltanto delle competenze che riguardano il coordinamento delle politiche migratorie, ma che rimangono comunque come competenza fondamentalmente degli Stati membri. Ma tecnicamente la decisione dell'Austria di limitare le quote di richiedenti asilo è legale? Perché l'Austria dice dal momento che la soluzione comune europea è ancora pendente, noi riteniamo legale questa misura. Ma in realtà al di là poi di quelle che sono le regole comunitarie, per cui appunto dovrebbero vigere e essere comunque in vigore quelli che sono gli accordi fatti nell'ambito del Consiglio lo scorso anno, c'è la questione fondamentale che il rifugiato politico ha diritto anche per i trattati internazionali ad essere accolto. Va detto però, ad onor del vero, che l'Austria si trova in una situazione abbastanza particolare, perché rispetto alla popolazione, ricordiamo l'Austria è una popolazione di poco superiore agli 8 milioni, è uno dei paesi che riceve il maggior numero di rifugiati, circa 90.000 lo scorso anno, e si sono praticamente triplicati nel corso di un solo anno. Quindi che il problema esiste, che ci sia un problema per l'Austria, non c'è dubbio. Per quanto riguarda invece l'iniziativa di chiudere la frontiera, di creare una barriera al Brennero, cosa potrebbe accadere per il nostro paese? Quali scenari potrebbero esserci? Ma infatti questa è la posizione che sento di alcuni partiti, soprattutto in Italia, cioè quello di appunto avere una politica più nazionalistica anche in campo delle migrazioni. Mi è totalmente incomprensibile, nel senso che noi siamo un paese di arrivo dei migranti. Nel momento in cui Schengen dovesse crollare e si ripristinassero le frontiere, è evidente che l'Italia sarebbe lasciata totalmente a se stessa. Quindi è evidente che per l'Italia è fondamentale cercare una soluzione comunitaria. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso la giornata intensa, bisogna dire, di Matteo Renzi in giro per la Lombardia, in particolare a Milano, dove ha presentato la Fashion Week milanese, cioè la settimana della moda, ha incontrato i big della moda italiana e poi anche ha presentato questo progetto Pox Expo. Ma chi l'ha seguito è la nostra Raffaella Calandra. Quindi Raffaella, come ci sintetizzi questa giornata? Ciao Roberta, sì, una giornata veramente intensa, cominciata questa mattina a Lodi, dove il Premier ha inaugurato lo stabilimento di un'azienda che aveva assunto con il Jobs Act, e poi appunto a Milano, prima con un pranzo di gala con i big della moda, poi appunto alla presentazione del Human Technopole, il polo che sorgerà nell'area Expo. Si può dire che c'è stato un unico leitmotiv di tutta questa giornata, ossia l'impegno del Premier a riportare entro un anno un'Italia diversa, un'Italia con più fiducia, un'Italia che si libera della polvere, si libera della sua volontà di piangersi addosso, ma che invece è proiettata al futuro e che potremmo definire, o meglio che il Premier ha definito usando un aggettivo che in questi due giorni è stato un po' un petaloso, caso mediatico, petaloso, ecco, fatto sentire all'inizio. Ha usato questo aggettivo che è appunto venuto fuori dopo che un bimbo ha scritto alla Crusca, o meglio con la sua maestra, hanno scritto alla Crusca per chiedere se potesse essere corretto usare questo aggettivo. Ebbene, la Crusca ha detto che lo è, e quindi al premier questa storia è piaciuta moltissima e ha definito petaloso il progetto appunto presentato ad Expo, per cui ha dato appuntamento tra 3 mesi, ma un po' è stato un po' il concetto anche di tutta questa giornata all'insegna dell'ottimismo. Raffaella, scusa, quel progetto di cui parlava, Human Technopole, come dicevi, che è un polo scientifico sui temi della salute e dell'invecchiamento, no? Che dovrebbe prendere il posto di dove erano i padiglioni dell'Expo. Esatto, un polo che verte soprattutto sulla genomica, sulla la nutrizione, è un polo molto all'avanguardia che è stato illustrato in grandi linee, per cui tra 3 mesi dovrebbero partire i cantieri. Questo il progetto del Premier, il finanziamento già dovrebbe essere, ha detto Renzi, 150 milioni già stanziati per decreto, quindi staremo a vedere se questo sarà il punto di partenza di una riorganizzazione dell'area appunto Expo. Dicevamo prima, però, Renzi ha anche è stato anche il primo presidente del Consiglio ad inaugurare la settimana della moda milanese, un settore economico molto importante per il nostro paese, per cui è stato l'ospite d'onore di questo pranzo di gala nella sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, dove appunto ha voluto dire ai big della moda, ma anche alla numerosa stampa straniera che era presente, che l'Italia è tornata, l'ha detto in un inglese con un proprio oxfordiano, ma grazie Raffaella Calandra, ci sentiamo dopo.